It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre una densa coltre di nebbia copre come un lenzuolo tutto il creato, K e Drago, in automobile, non si sono ancora accorti di essersi persi. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Premere il pulsante e ritirare il biglietto. Arrivederci. Guidate con prudenza. Tu segui le strisce. Se segui le strisce, secondo me abbiamo saltato l'uscita. Ma no, Drago, c'è solo la nebbia. Ma perché sei angosciato? Perché quando c'è la nebbia ci sono tre cose da fare. Tre cose da fare. Non usare gli abbaglianti, accendere gli antinebbia, accesi, e seguire le strisce. Le strisce, eh. Bisogna anche vederle. A me viene da tirare giù il finestrino, mettere la testa fuori per vedere meglio la striscia. Su, adesso vedrai che poi troviamo e arriviamo. Scusa, K, ma non ti viene da vomitare? Ma in che senso? Come fai a leggere in macchina? Ma io leggo sempre in macchina, Drago, lo sai? Sì, lo so, ma perché non ti viene da vomitare? Non lo so, vuoi che mi venga da vomitare? Non lo so. Io non riesco a leggere in macchina. Infatti tu stai guidando, no? Potrei anche vomitare guidando. Sì, bravo, basta che ti giri dall'altra parte, così. Abbiamo saltato l'uscita. Ma no. Sì, invece. Tu segui le strisce e vedrai che è giusto. Ma perché qualche volta non guidi tu? Io preferisco leggere. Tanto io guido. Ma sei nervoso? No, non sono nervoso. Sembri nervoso, eh? Non ho dormito male. Perché? Perché ho sognato, ho fatto un sogno strano. Un incubo? Una specie di incubo. C'era un pollo. C'era un pollo? Un pollo. Come un pollo? Che tipo di pollo? Un pollo qualunque. Un pollo bianco con la cresta rossa. Insomma, un pollo. E cosa faceva il pollo? Mi guardava e parlava. Sì, ma Drago, ma i sogni non significano niente. Sono solo pensieri che fai mentre dormi, capito? Il cervello va per conto suo e tu parli con un pollo, tutto qui. Tutto qui cosa? Insomma, il pensiero è come una specie di viaggio, un percorso. I pensieri normali sono come i percorsi che fai per abitudine. Sono i viaggi di tutti i giorni, da casa all'ufficio, dall'ufficio a casa. Quale ufficio? Vabbè, fammi finire. I sogni invece sono percorsi strani, complicati. Sono come i viaggi nella nebbia. E allora? E allora tu segui le strisce e vedrai. Merda! Ci viene addosso! Merda! Frena! Merda! Era contromano, in autostrada. Ma stavamo per... Ma com'è possibile? Contromano! Ma stavamo in per autostrada. Morire! E se fossimo noi? Cosa? Contromano. Ma non è possibile. No, forse con questa nebbia. Ma ti dico che non è possibile. Magari hai sbagliato corsia. Ma non ho sbagliato niente. Se tu invece di leggere il giornale guardassi i cartelli. Ma quali cartelli? C'è la nebbia. Appunto, i cartelli. Va bene, appunto. Allora adesso stiamo fermi qui e aspettiamo che passi qualcun altro. Ma chi? Ma da quando siamo entrati al casello non abbiamo incontrato neanche una macchina. Non c'è nessuno. Allora vai di là. Perché? Senti, Drago, non lo so, non so nemmeno dove siamo. Come faccio a sapere qual è la strada giusta? Tu lo sai? No. E allora non prendertela con me. Vuoi che ti dica che ci siamo persi? Vabbè, ci siamo persi. E più tardi di quanto sembra. Ma poi siamo davvero in autostrada? A parte il camion contromano, non è ancora passato nessuno in autostrada di solito. Ehi! Guarda! Ma cosa? Piovono piume! Il camion di prima trasportava dei polli. Polli! come quello del tuo sogno. Sì, va bene, però qui non passa nessuno, dobbiamo far qualcosa, sì, non vabbè, sappiamo. Ho capito, da che... ma cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? Voglio dire, ma non hai visto un cartello, un segnale, un lampione da qualche parte? Guardati intorno, Drago, non si vede niente, siamo in mezzo al nulla. In the middle of nowhere. Ma dov'è che stavamo andando? Non mi ricordo nemmeno a che ora siamo partiti, da dove siamo partiti, niente. Che ora è? È mezzanotte. È mezzanotte. Mezzanotte? Sì. Strano. Giurerei che era mezzanotte quando abbiamo imboccato l'autostrada. Anche a me sembrava. Guarda sul biglietto. Il biglietto dell'autostrada, sì, c'è l'ora. Dove l'avrò messo? Non lo trovo, non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Ma tu sei sicuro di averlo preso? Al casello, tu dov'eri, scusa? Ero qui. E appunto, mi vuoi dire che non ti ricordi che siamo entrati in autostrada? Forse sì. Io ricordo benissimo che la voce registrata del casello ci invitava a guidare con prudenza, ti ricordi? Con prudenza. Sì, quello me lo ricordo. Poi però da lì in avanti non abbiamo più visto anima viva. Tranne il camion di Polly. Senti, perché non scendiamo? Non ho il giubbotto arancione, non posso. Ma chi se ne frega del giubbotto arancione? Ti fanno la multa. Ma chi? Non c'è nessuno. Vabbè, ma ti travolgono. Ma dai, Drago, non c'è nessuno. Ma guarda, non so perché, ma io non mi fido a scendere. Ma cosa vuoi fare, star qui tutta la notte? Appena la nebbia si alza, allora scendo. Drago, non sappiamo nemmeno se siamo in mezzo alla strada, in una piazzola o chissà dove. Non si vede niente. Facci tu, io resto qui di guardia, tanto serve uno di guardia, no? Allora, vai o no? No, o vieni anche tu o niente. Allora stiamo qui. Drago. Cosa c'è? Senti. Cosa? Cos'è stato? Non lo so. Guarda! C'è un pollo qui fuori, Drago. Ma come dove? Nel tuo sogno, lì, guarda. Accendi gli abbaglianti. Eccolo. Proprio come quello del sogno. E adesso non vorrai dirmi che parla. Ma no, non parla, meno male che non parla. Senti, io vado a dare un'occhiata. Dai, vieni anche tu. Dai. Pio. Pio. Si confonde nella nebbia, dov'è? Pio, vieni qui. Pollastrello, vieni qui, Pollastrello. Da dove arrivi? Da qui vicino. È vicino. Cappa. Proprio qui. Parla. Come il pollo del mio sogno. E si sta muovendo. Si sta muovendo. Seguiamolo. Dove vai, Pollastrello? Vicino. Pio. Dove vai? Sta entrando. Dove siamo? Non lo so dove siamo. Tu seguilo. Non mi fiderei. Seguilo, Drago. Ah. Ma dove siamo? Non lo so. Sembrerebbe un capannone industriale. Oppure un magazzino. Sì, un magazzino. Però. Non si vede. Ma Drago. Ma cosa c'è? Cosa mi guardi? Ma come? Ma senti che puzza. Insomma, ma ti sembra che. Insomma, ma anch'io sento la puzza. Ah, meno male. Questa però, pensaci bene. Analizzala bene. Sì, è l'inconfondibile puzza. La fabbrica di polli. Cosa succederà a Cappa e Drago nella misteriosa fabbrica di polli? Il pollo parlante era davvero un pollo parlante o un'allucinazione? Lo scoprirete solo ascoltando il prossimo audace allestimento de... La fabbrica di polli. Good night, ladies and gentlemen, good night.